Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, dove eravamo rimasti dopo la calma di lunedì e i rialzi di ieri. Siamo tornati a borse in calo. Devo dire che rispetto alla piega che avevano preso a metà mattinata, i cali arrivavano al 4% a Milano, adesso c'è stato un leggero miglioramento, meno 3,4%, di questi tempi ci si accontenta un po' di tutto. La cosa che lascia perplessi è che Milano è la borsa peggiore oggi in Europa, cioè è vero che sull'indice milanese pesano molto i bancari, mentre su altri indici sono un po' più, da questo punto di vista, diversificati, però meno 3,5 Milano, meno 2,8 Parigi, meno 2,6 Francoforte, meno 2,4% Londra. L'America ha aperto e sta mantenendo un calo dell'1%, con un euro che ha fatto di tutto oggi, cioè è sceso a 1,21, poi è tornato a 1,23, ma insomma, non ripeto, non mi sembra una grande notizia l'euro, se non come a livello indiretto, come segnale e indicatore delle tensioni sui mercati. Che cosa è successo? Oggi non è stata la volta delle agenzie di rating. È successo che, quanto alcuni giornali avevano già anticipato questa mattina, è avvenuto, cioè la Germania ha bloccato le vendite allo scoperto. Chiariremo cosa sono. Sono quelle vendite che permettono di guadagnare quando, o meglio, quegli acquisti che permettono di guadagnare quando le borse calano, da molti indicati come un elemento che va ad amplificare i cali di borsa, perché se puoi scommettere guadagnando sui cali, è chiaro che tendi a essere anche short selling, o comunque tendi a essere ribassista come atteggiamento. La cosa che lascia perplessi, e devo dire molti osservatori, a partire dal commissario europeo, è che insomma queste cose non si fanno da soli. È difficile in un mercato globale, in una finanza globalizzata, che un paese possa prendere queste iniziative da solo. È successo ai tempi, lo ricorderete, di Lehman Brothers, cioè quando a ottobre del 2008 fallì la banca americana, i mercati non riuscivano a risollevarsi, che le varie autorità di vigilanza anche a livello europeo decidessero all'unisono però di bloccare le vendite allo scoperto. Il fatto che lo faccia un paese da solo senza consultarsi con gli altri la dice lunga su questa Europa unita solo nell'euro, e infatti di questo parleremo nella seconda ora del programma. Ripeto, non è tanto la decisione in sé, è che l'abbia presa una sola autorità di vigilanza, ossia la Consob tedesca. La Consob italiana poco fa, due ore fa, ha fatto sapere che per ora non ci pensa a bloccare le vendite allo scoperto. Insomma, in realtà non si capisce perché un paese si debba muovere in questa maniera. Detto questo, non capiamo nemmeno perché, se il timore è che la Germania abbia bloccato questo tipo di vendite, quindi chi scommette sui cali, perché le banche tedesche potrebbero avere bilanci e conti messi peggio di quanto non si possa pensare, non si capisce perché Milano perda un punto e passa più della Germania. Cioè, che cosa c'entra Milano, che cosa c'entra le banche italiane? Tra l'altro la peggiore è UniCredit, la peggiore in assoluto. Lì sì, c'è un'esposizione in Germania, Hypovereinsbank in Austria, Bank of Austria, perde il 6,1% a 1,76 euro. Poi c'è Geox, che continua ad andare male, meno 6%, Saipem meno 5,6%, Azimut meno 5,1%, Intesa meno 4,80% come CIR, Buzzi Unice meno 4,4% come Impregilo, il 4% lo perde Talcementi, il 3,80% Pirelli, il 3,60% Tenaris ed Exor, il 3,5% anche Generali. Quindi Intesa e Unicredito soprattutto, a livello di S&P MIB. Il peggiore in assoluto, Ratti meno 8%, BNP Paribas meno 6,30%, il migliore in assoluto, titoli molto molto sottili, Sabaf più 2,47%, Screen Service Broadcasting più 4,90%. Euro, dicevo, quota 1,23. Le altre notizie in breve. Partiremo però in apertura cercando di capire che proposte stiano arrivando, che soluzioni potrebbero arrivare dai commercialisti a quanto annunciato dal ministro Tremonti, che ha detto: faremo una stretta finanziaria per reperire 24-25 miliardi di euro all'insegna dell'equità, combatteremo l'evasione vera e i falsi invalidi, la vera evasione e i falsi invalidi. Da lì si discute molto del riaggiornamento del redditometro, di trovare delle misure che vadano a incrociare il reddito reale e invece il reddito dichiarato, quindi i consumi reali e il reddito dichiarato. Su questo indubbiamente si può fare di più, sia come mole dell'evasione fiscale sia come controlli. 349-238-6666 per i vostri SMS. Le altre notizie in breve. Allora, il petrolio resta sotto i $70 al barile, anche se in leggero rialzo. Oggi chiaramente mi sto riferendo all'andamento a New York, più 0,5 a $69,7. L'euro l'abbiamo descritto. Tokyo questa mattina, volete sapere come ha chiuso? Ha chiuso con mezzo punto percentuale di calo. Dal Giappone è arrivata anche la notizia che la Toyota ha ritirato altre 11.500 Lexus per problemi ha richiamato 11.500 Lexus per problemi allo sterzo. Come va Atene? Atene è in calo. Devo dire che oggi Milano è la peggiore di tutte, peggio anche di Parigi, di Francoforte, ma anche di Madrid e di Atene. Allora, la borsa di Atene alla fine ha chiuso in positivo. La giornata era iniziata in maniera molto difficile. È arrivata a perdere Atene quasi 4%, però le autorità greche hanno provveduto al pagamento di 8 miliardi e mezzo di euro di obbligazioni in scadenza. Era una data molto importante quella di oggi, del 19 maggio, per Atene, e alla fine la borsa di Atene ha chiuso con un leggero rialzo, mezzo punto percentuale. Le vendite allo scoperto, il blocco è a tempo indeterminato, lo ha detto la stessa cancelliera Angela Merkel durante il suo intervento al Bundestag. La misura rimarrà in vigore finché non verrà raggiunto un accordo a livello europeo sul tema delle vendite allo scoperto. Allora, chiariamo subito, poi ne parliamo anche nella seconda ora. In inglese si chiama short selling, vuol dire è un'operazione tipicamente speculativa, si vanno a vendere titoli, beni o valute che non si hanno in mano, cioè l'investitore scommette sul ribasso del valore di mercato e vende titoli non suoi, cede azioni che sono prese in prestito pagando un tasso di interesse sperando di riacquistarle a un prezzo più basso. La differenza tra il prezzo di vendita e di riacquisto determina il rendimento o le perdite dell'operazione, se volete. Poi c'è anche il naked shorting, ossia la vendita allo scoperto nuda, la cessione dei titoli, del titoli di borsa, avviene senza che si siano presi a prestito i titoli, si va al ribasso e basta. Nel primo caso infatti si paga un tasso di interesse, io prendo delle cose a prestito e poi le riacquisto a un prezzo più basso, con questa differenza, no, guadagno. Volete sapere se la Germania ha vietato? Noi abbiamo come notizia che ha vietato le vendite allo scoperto in generale, non solo quelle nude, però insomma chiariremo tutto nella seconda ora del programma. La Consob ha detto che non lo farà, il commissario europeo ha detto, insomma, attenzione, occorre coordinare questo blocco, l'ha detto il commissario europeo al mercato unico Michel Barnier. Dicendo attenzione, dopo che la Germania e l'Austria hanno bloccato, perché c'è anche l'Austria su questo, hanno bloccato le vendite allo scoperto di titoli speculativi legati soprattutto in questo caso al debito pubblico tedesco, obbligazioni legate, titoli legati alle obbligazioni sul debito pubblico tedesco, l'Europa è rimasta un po' perplessa. Lo stesso commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn ha detto gli stati devono agire come predicano, quindi con un pacchetto di misure forti per ridurre i deficit pubblici. E ancora secondo Olli Rehn, quindi commissario per gli affari economici e monetari, è stata evitata nelle scorse settimane una nuova Lehman Brothers, ma non è ancora finita. Di crisi ha parlato oggi di nuovo il presidente del Consiglio Berlusconi in conferenza stampa con il premier egiziano Mubarak. Ha detto: da diversi dati mi inducono all'ottimismo, l'euro debole favorisce le nostre esportazioni, c'è un positivo aumento degli investimenti in pubblicità e la realtà economica è diversa da quella che viene fotografata e descritta dalle borse. ci sono tanti fattori che inducono all'ottimismo. Per esempio, nel primo trimestre sono cresciute del 17% le esportazioni di prodotti italiani. La svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro favorisce certamente le nostre esportazioni. E c'è un fatto interno a cui io, anche per la mia provenienza professionale, do molta importanza, è un incremento dell'investimento pubblicitario delle aziende italiane. Questo fatto mi induce a guardare alla situazione non con un eccessivo pessimismo, ma anzi con ottimismo. Ricordo che molto spesso la realtà economica è staccata dalla scena finanziaria. Ricordo che le borse viaggiano con regole proprie e che la realtà vera, oggettiva dell'economia non è quella che si legge sulle variazioni e sulle fluttuazioni delle borse. E poi il Presidente del Consiglio ha detto che la crisi non influirà sui programmi del governo, che comunque per ora non se ne parla di ridurre le tasse, la crisi non consente ora il taglio delle tasse. Questo può apparire un po' una contraddizione, perché se non influisce, però poi non permette il taglio delle tasse. Ha detto però Berlusconi che entro 3 anni verrà ridotta la pressione fiscale, quindi entro la fine della legislatura, e che il federalismo sarà uno strumento di lotta all'evasione. E poi ha invitato le imprese italiane ad andare alla conquista dei mercati mondiali. Abbiamo bisogno di conquistare i mercati stranieri. Lo sforzo delle industrie italiane, ma soprattutto delle piccole e medie industrie italiane, in questo momento e per il prossimo futuro, sarà quello di sviluppare la rete commerciale su tutti i grandi paesi, a cominciare dai paesi orientali, Cina, India, Federazione Russa, che stanno incrementando di molto il loro benessere. Ecco, c'è per esempio anche un uso di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di Internet, che consentono anche a piccole aziende, senza avere persone e quindi presenze fisiche precise nei vari paesi, di offrire i loro prodotti in tutti i paesi del mondo. Ecco, in questa direzione noi pensiamo di dover portare avanti anche dei corsi particolari nei confronti di tutte le piccole e medie imprese, perché lo sviluppo, le prospettive, l'orizzonte delle imprese italiane e dei loro eccezionali prodotti è proprio questo: il mondo, conquistare i mercati mondiali. Sì, vedo messaggi su questo. È vero che le imprese italiane già ci sono, li hanno conquistati questi mercati. Certo che si può fare sempre di più. I dati sull'export che abbiamo dato ieri erano comunque buoni. Vedo che alcuni in maniera polemica dicono: beh, se volete aiutare le imprese italiane, che lo Stato li dia i 60-70 miliardi che deve di crediti nei confronti delle imprese italiane, sarebbe una boccata d'ossigeno. Diciamola tutta, è impossibile che in questo momento questi soldi tornino tutti nella loro interezza, perché sono pari a 5 punti percentuali di PIL. Insomma, con questi conti non si può fare. Corretto invece, vedo che alcuni lo scrivono, insomma, l'aiuto deve arrivare anche dalle istituzioni. Sì, uno sforzo in più, diciamo. Adesso vedremo chi sarà il prossimo ministro delle attività produttive. Anche il governo potrebbe farlo nell'aiutare le missioni internazionali delle imprese, penso a quelle di Confindustria fatte con le banche, con l'ABI, con l'ICE. Insomma, più se ne fanno meglio è, per conquistare i mercati, anche perché se sei piccolo hai anche difficoltà come costi fissi, come struttura, ad andare su mercati così distanti. Va bene, non buttiamola in politica, lo dico a chi scrive. Andiamo avanti con quello che riguarda la Corte dei Conti, che ha detto: attenzione, il taglio degli stipendi dei manager pubblici non porterà nelle casse dello Stato una cifra ragguardevole. E quello che fa notare però la Corte dei Conti è che questa crisi, con le dimensioni inusuali che ha avuto questa recessione, potrebbe costare all'Italia 130 miliardi di euro dall'inizio della legislatura fino al 2010. E poi si è messa a parlare anche di lotta all'evasione, quindi entriamo col primo tema. 349-238-6666, ha detto: la lotta all'evasione, lo dice la Corte dei Conti appunto, sulla lotta all'evasione si corre il rischio latente e perdurante di credibilità. Nel frattempo, oggi pomeriggio è atterrato poco prima delle 15 all'aeroporto di Ciampino l'aereo militare proveniente dalla Francia con a bordo i militari della Guardia di Finanza italiana con la lista dei 7.000 nomi di correntisti italiani che avevano conto corrente alla banca HSBC sospettati, a ragion veduta, di evasione fiscale. Molti di voi ci hanno detto: ma tanto questi hanno già usato lo scudo fiscale. Sarà interessante vedere appunto quale sarà la posizione poi anche dell'Agenzia delle Entrate. E poi anche Attilio Befera, che è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, parlando alla conferenza annuale dei commercialisti, ha detto: attenzione, in un momento difficile come questo o lo Stato riesce a incidere profondamente sull'evasione fiscale o si mantiene il rischio di difficoltà per il Paese. E proprio dalla conferenza annuale dei commercialisti italiani sono arrivati spunti e proposte. Allora, la battuta che fanno alcuni ascoltatori, ma insomma, giusto coinvolgere i commercialisti, è come quando si chiamano gli hacker, quando gli istituti o le banche o i ministeri chiedono agli hacker come rendere un sistema inviolabile. Chi meglio sa come combattere l'evasione di chi aiuta ad evadere? Queste le frasi che riceviamo. Beh, può essere un ragionamento, non so se il parallelo possa andare a genio a Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Presidente Siciliotti, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dico subito che non mi piace tanto la definizione, ma ce la siamo. Ha ricordato che oggi si è conclusa una giornata importante qui. È finita proprio in questo momento, mi avete chiamato nel momento giusto, 1700 colleghi presenti qui, ministri, sottosegretari, leader politici, rappresentanti istituzionali, parlamentari, hanno discusso assieme a noi quella che è la situazione dei conti di questo Paese e quelle che possono essere le ipotesi di riforma fiscale. Io mi permetterei di dire che non è tanto perché c'è la crisi che non si possono ridurre le imposte, non si possono ridurre le imposte perché i nostri conti sono quelli che sono. Sì, sì. E non è assolutamente pensabile che se prima non si mette mano alla spesa si possa pensare di ridurre la pressione fiscale. Ah. Non è assolutamente immaginabile. I numeri sono quelli che sono. Noi abbiamo costantemente uscite che sono superiori alle... La spesa cresce ogni anno senza sosta e cresce in termini reali, cresce al netto degli interessi passivi, cresce se considerata parallelamente alle entrate e cresce se considerata, come dire, il rapporto al PIL. E quindi cresce punto e basta senza basta. Ecco, allora fermiamoci su questo, Siciliotti, perché lei oggi su Sole 24 Ore ha scritto c'è un suo intervento in cui ricordo come è vero che abbiamo imbarcato molto debito negli anni 80-90, però lei fa anche un calcolo molto interessante, dice: attenzione che in termini reali l'attuale debito pubblico italiano, cioè quella roba che, che è il 115% più di una volta del nostro PIL, è solo per il 21% imputabile al periodo 1993, no? Un quinto l'abbiamo fatto nel periodo della cosiddetta Seconda Repubblica. Ecco, allora la Seconda Repubblica ha mantenuto alcuni vizi della prima, e su questo diciamo, c'è poco da discutere, tra cui una spesa corrente, perché poi il debito si crea sì con gli investimenti, ma soprattutto con la spesa corrente, che vuol dire gli stipendi, le consulenze, le pensioni, i falsi invalidi, ci mancherebbe, ma insomma non gli investimenti infrastrutturali, non le autostrade, non i ponti e non le gallerie, e la spesa corrente continua a aumentare, per cui non si riesce a tenere sotto controllo quella che è la spesa complessivamente alta della pubblica amministrazione, governo nazionale, le regioni, le province. È inutile far finta che il governo locale sia sempre meglio, attenzione. Allora, detto questo, lei fa notare come per esempio la spesa pro capite sanitaria sia cresciuta, cioè, praticamente del 51% dal 1993 al 2008, cioè nella Seconda Repubblica, la spesa per la protezione sociale del 48%. E ricorda che se avessimo portato l'evasione fiscale a un 6%, a un 12% sul PIL contro il 16% che è stimata, avremmo già risparmiato nel 2009, saremmo arrivati con 590 miliardi di debito pubblico in meno, che è una cifra spaventosa, che vuol dire un terzo di debito pubblico in meno. Sì, ci siamo ci siamo dilettati, tra virgolette, a fare un piccolo esercizio. Cosa che qui c'è l'idea che il debito è un lascito integrale del passato e che con questi interessi passivi in realtà non si possa fare nulla. Non è vero. Non è vero, perché se in questi 7-8 anni, in questi 8 anni, diciamo nel terzo millennio, la spesa fosse aumentata dell'inflazione più un 1% e l'evasione fosse stata riportata dal 16 al 12%, quella della Francia per intendersi, avremmo recuperato le cifre, lei dice, 590 miliardi di euro destinati allo sviluppo, alla ripresa, all'incentivazione di famiglie e attività produttive. Quindi non è vero che non si possa fare nulla ed è vero che bisogna fare molto, ma partendo dalla spesa, credo che con una spesa costantemente superiore alle entrate, in tutti i termini, l'abbiamo detto, reali, eccetera, e non sia ragionevolmente pensabile di immaginare una riduzione generalizzata del carico fiscale prima di aver messo la spesa. Questo allora, io però, Sicilia, te la vedo un po' così. C'è una spesa pubblica che, come lei ricordava, è cresciuta del 16% in quel periodo 2001-2008, quindi penultimo governo Berlusconi, ultimo governo Prodi, ultimo governo Berlusconi. Cioè, questo per dire che, insomma, attenzione, è cresciuta del 16%. Quindi non è vero che c'è stata questa capacità di stringere sulla spesa pubblica né il centro-sinistra né il centro-destra. Fosse cresciuta la spesa pubblica del 12%, avremmo risparmiato 500 miliardi di roba, un terzo del debito pubblico italiano, quasi un terzo. Parallelamente però, e mi sembra di averlo colto nelle parole del ministro Tremonti ieri, è chiaro che con una crisi del genere non si può pensare di fare una manovra solo con i redditi conosciuti, cioè le buste paga del settore privato, del settore pubblico, perché, voglio dire, in questo modo vai a penalizzare comunque chi le tasse le paga tutte e ti tieni 100 miliardi grosso modo di evasione fiscale. E dopo il meteo e la pubblicità, magari se riesce anche a posizionarsi Siciliotti con una copertura un po' migliore del telefono, le vorrei chiedere quali sono le proposte. Ieri abbiamo visto anche da voi un calcolo di un nuovo redditometro, cosa potrebbe portare. Voi il redditometro, per esempio, lo vedete con favore? L'abbiamo sempre visto con favore. Ecco, il fatto che si vadano a incrociare gli acquisti di auto con i redditi dichiarati, insomma tutto un insieme di strumenti molto concreti di cui vorrei parlare con lei dopo il meteo e la pubblicità, quindi 3-4 minuti, nel frattempo magari riusciamo anche ad avere una maggiore copertura. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17.36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisioni. Allora, concludiamo l'approfondimento dedicato alla lotta all'evasione, a quello che è emerso dal convegno annuale della terza conferenza annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Siamo in collegamento con il presidente dei commercialisti italiani, Claudio Siciliotti. Allora, chiarito Siciliotti, come lei ha scritto oggi su Sole 24 Ore, che la spesa pubblica, la spesa corrente non è sotto controllo, si può ridurre e si può fare come altri paesi, non è che debba essere tagliata a tout court. La Francia ha avuto una crescita ma più contenuta. Vorrei usare lo stesso esempio che lei ha usato per la spesa pubblica anche per l'evasione fiscale, cioè basterebbe portare la nostra evasione a un livello francese, avremo 50 miliardi, 60 miliardi l'anno di imponibile. Le chiedo come, perché lei dice Italia, la spesa della lotta all'evasione fiscale devono marciare su binari paralleli, e va bene. Ieri abbiamo visto un vostro studio, che poi è anche stato ripreso dal fisco. Ci sono 97.000 contribuenti che nel 2007 hanno acquistato una vettura che costava il doppio del loro reddito dichiarato. Ma non si può fare subito una cosa del genere, Siciliotti? Ma credo proprio di sì. Potrei dirle che il paese da 30.000 patenti nautiche, per avere la patente nautica bisogna avere un'imbarcazione di una certa dimensione, non il gommone, e ci sono un sacco di queste strutture. Io credo che la lotta all'evasione fiscale si va in due direzioni. Da un lato, io credo l'accertamento sintetico e il redditometro, l'abbiamo detto, non questo redditometro, aspetteremo di vedere quali saranno concretamente le proposte che ieri ci sono state annunciate dall'Agenzia delle Entrate e sulle quali ci è stato chiesto collaborazione, che non mancheremo di fornire. Quindi un redditometro, come dire, aggiornato ai tempi, adeguato a un'economia che conosce internet, che è quella di un mondo globalizzato, che è nettamente diversa da quella che esisteva agli anni 90 quando lo strumento è stato pensato. Ma l'altra direttrice dovrebbe essere la quartiere, paradisi fiscali e finanziari, perché non si può ammettere che vi sia opacità nell'informazione, non si può ammettere che un'economia globale abbia regole locali. Queste mi sembrano le due grandi priorità sulle quali la categoria, col contributo delle sue conoscenze, è pronta a fare la sua parte. So che molti fanno facile ironia su questo. Io credo viceversa, l'abbiamo dimostrato forse anche nell'analisi dei conti dello Stato, visti con un'ottica che nessuno fino adesso aveva utilizzato. Stamattina ho usato una battuta, dopo tanti economisti forse ti vuole un buon commercialista, che guardi queste cose con analismo e buon senso, che guardi classi fondamentali, entrate e uscite, e differenza tra le une e le altre, perché si parte da lì. Questo percentuale di rapporti su PIL, che mai ci dicono qual è l'esatta consistenza della nostra finanza pubblica. Allo stesso modo, come le ho detto, con lo stesso pragmatismo dobbiamo affrontare la lotta alle persone. Allora, io continuo ad avere una comunicazione che va e viene, Siciliotti, però abbiamo visto i nuovi parametri del redditometro, verrà inserito il contributo per la colf, le spese di ristrutturazione, l'acquisto di beni presso case d'asta, se addirittura uno è residente al nord piuttosto che al sud, se abita in un grande centro o in un piccolo, se è iscritto a centri benessere, insomma tutto insieme, possiede case e quant'altro. Le chiedo, visto che sono atterrati i finanzieri da Nizza con i 7.000 nomi della lista degli HSBC, lei si è fatto un'idea, queste persone, se hanno scudato i loro soldi, potrebbero comunque essere perseguiti? Ce lo chiedono moltissimi, io non saprei cosa rispondere. Ho la sensazione di sì. Ho la sensazione, se l'hanno legittimamente fatto prima di avere un accertamento, penso di sì. Cioè, anche sullo scudo, un'osservazione che ho fatto oggi e che vorrei in qualche modo ripetere, condividere con gli ascoltatori. Il bilancio dello Stato del 2009 ha un disavanzo di 81 miliardi. 81 miliardi sono occhi e croce 20 scudi. Noi siamo a discutere di una manovra che ha portato al massimo un sollievo di un ventesimo del deficit dell'anno, ma a un grave prezzo anche di credibilità del sistema. Su queste cose noi dobbiamo fare, immagino, Siciliotti, ci sta dicendo che perché lei lo scudo l'aveva digerito dicendo è una sospensione di legalità ma necessaria, adesso se ha rifatto i conti, no, ha visto. Non lo dico che prendiamo atto che è comunque una lesione al principio di legalità e immaginiamo che possa servire a qualcosa, però onestamente poi guardando i conti vediamo che serve a sanare un ventesimo del differenziale negativo che si è prodotto in un solo anno. Quindi giustamente da commercialista mi sta facendo il calcolo e dice beh, forse se su 100 miliardi di capitali che erano stati illecitamente portati fuori, che sono rientrati, se lo Stato avesse incassato più di 5 miliardi, magari ne avesse incassati 6, 10, 15, 20, avremmo avuto già una manovra finanziaria pronta. Ma però rendiamoci conto che tutte le volte che noi diamo atto a qualsiasi tipo di sanatoria, condono, chiamiamola come vogliamo, in qualche modo incidiamo sulla credibilità del sistema. E questo forse ha un prezzo. Se poi immaginiamo che i proventi di tutto questo li abbiamo anche prestati alla Grecia, no, vabbè, lì quello non si poteva. Quello sacrificio necessario, indubbiamente. Io non ho da criticare la politica del ministro delle finanze, perché ha tenuto la barra dritta in un periodo estremamente difficile e ha tutto il nostro apprezzamento. Il problema è più normali che negli anni eccezionali. Cioè, negli anni normali forse si sarebbe potuto fare molto di più. Con le vacche un po' più grasse, non con le vacche, diciamo, anoressiche che abbiamo adesso. Un'altra cosa, Siciliotti, sempre come presidente dei commercialisti, è una domanda che ci arriva ogni volta: ma perché non si riesce a fare un contrasto all'evasione per quello che sono i lavori autonomi, le professioni? Potendo detrarre quello che è la spesa o parte della spesa sostenuta dal singolo cittadino, penso all'idraulico, all'elettricista, a tutti quelli che ti dicono fattura così oppure non fattura. Sì, ma è un vecchio problema. È noto che negli Stati Uniti la detraibilità di queste spese è molto più ampia di quella consentita in Italia. Può essere una soluzione. Sa, il vero problema, diciamocelo tutto, è spezzare quella sorta di equilibrio degli squilibri che esiste in questo paese. Al lavoratore dipendente viene garantito una quasi assoluta, specie nella pubblica amministrazione, proprietà del posto di di lavoro e al lavoratore autonomo viene chiuso l'occhio nel momento in cui deve fare i suoi doveri. Beh, è il vecchio patto PCDC negli anni 70, no? Beh, insomma, questo è non voglio attribuire responsabilità. Storicamente, storicamente... E oggi deve finire. E deve finire in entrambe le direzioni, perché agli uni si deve chiedere di lavorare, di meritarsi il proprio posto di lavoro, agli altri si deve assolutamente chiedere di adempiere fino in fondo ai loro doveri fiscali. Non usciremo da questa crisi se non prenderemo consapevolezza che è finita l'epoca nella quale noi viviamo al di sopra dei nostri mezzi. Allora, no, anche la Grecia ha fatto così, ha dato molte garanzie al pubblico impiego, tredicesimi, quattordicesimi, aumenti salariali. L'evasione greca è incredibile, ma è più alta in numeri di quella italiana, e il paese vale un quindicesimo dell'Italia, è come se la nostra evasione fosse intorno ai 1.000 miliardi, non ai 100 miliardi, per dare l'idea. Le chiedo però un'ultima cosa, Presidente Siciliotti, visto che adesso il Ministro Tremonti ha un compito non facile, cioè deve ridurre la spesa pubblica, e di tanto, rassicurare i mercati, continuano ad esserci voci di un possibile abbassamento del voto sul debito italiano, e però deve anche combattere l'evasione fiscale. Secondo lei la via più veloce per reperire 25 miliardi, oltre al contenimento della spesa, potrebbe essere una patrimoniale? Ma sa, guardi, bisogna... io credo... insomma, quando le dico 80 miliardi di deficit dell'anno e lei mi parla di 25, ecco, o si parla di 25, capiamo che comunque non è una misura strutturale, serve per tirare avanti, non serve per risolvere nulla. Nella misura in cui 25 miliardi non è mai stato il deficit, perché è sempre stato più alto degli 70, ultimi 8 anni, certo. Per dire, stiamo parlando di qualcosa che migliora la situazione ma non la cambia. Se invece immaginiamo che facciamo cassa perché passi la nottata, poi rinviamo la soluzione dei problemi. Non è che voglio criticare, capisco le difficoltà con le quali si deve operare e chi deve prendere decisioni ha tutto il mio apprezzamento e la mia comprensione, ma proprio la conoscenza dei numeri ci mette in condizioni di dire bene, 25 miliardi, li abbiamo tirati fuori e abbiamo sanato una parte. Cioè, allora, meno della metà ho capito benissimo, però io vorrei una risposta molto secca adesso. Immaginiamo che Tremonti proponga una riduzione, come fece già nel precedente governo quando era ministro, del 2% della spesa, del trasferimento di spesa, no? Per cui il patto di stabilità interno, meno 2%, poniamo. E dall'altra parte si dica, ok, riduco, chiudo i rubinetti della spesa, ma aumento la lotta all'evasione. Sulla lotta all'evasione, il metodo migliore per lei è andare con una cosa secca sul patrimonio, avere un redditometro subito più efficiente, o che cosa? Perché la parte del pubblico impiego l'ho capita, quella è anche più, tra virgolette, visibile, basta volerlo. Comprendono tutti. La patrimoniale poi è una riflessione che sicuramente va fatta, ma poi siccome ognuno la interpreta come vuole, perché qualcuno immagina che la patrimoniale debba applicarsi ai redditi più elevati, e va a finire per colpire soltanto il lavoro, non quelli che possiedono, che forse oggi come oggi sono i veri ricchi, i pochi ricchi di questo paese, perché chi dispone solo del proprio lavoro, tanto ricco non lo diventa mai, e invece chi possiede. Quindi in teso di definire che cosa si intende per patrimoniale, io preferisco un severo redditometro, estremazioni di ricchezza così evidenti e così incompatibili con il proprio reddito dichiarato, modo ne paghi il figlio. Per cui anche se poi la macchina c'è la tua moglie, se la casa o è in testa del figlio, insomma il redditometro serio potrebbe essere l'unico modo per combattere l'evasione in un paese in cui il reddito da lavoro è spesso tassatissimo e il patrimonio è spesso sconosciuto al fisco. Grazie a Claudio Siciliotti e appunto complimenti anche perché anche quest'anno nel vostro convegno siete riusciti a attirare l'attenzione dei media e degli uomini politici. Grazie quindi al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. E adesso i mercati, vi anticipo che d'ora in avanti sarà l'unico tema, perché oggi insomma, è successo un po' di tutto in borsa. Sulla lotta all'evasione, sì, avete ragione, è stato eliminato la contabilità, la tracciabilità e contabilità del registro fornitori, misure prese da Visco, gli assegni sono stipati più in alto, lo so, abbiamo espresso a suo tempo le perplessità per misure che oggettivamente finivano con l'avvantaggiare l'evasione fiscale, alcuni di voi scrivono che basterebbe obbligare tutti gli italiani a pagare o avere degli incentivi a pagare con la carta di credito. Lo sappiamo benissimo, infatti, che anche la criminalità organizzata, oltre che l'evasione fiscale, si nutre dei contanti, non certo delle carte di credito. In America, l'abbiamo detto molte volte, anche in Gran Bretagna, pagare in contanti è già una cifra, diciamo, considerevole, è già sintomo di stranezza, viene guardato quasi come un rapinatore di banca. E ci sono tanti altri strumenti, bisogna farla, vediamo se arriverà una vera lotta all'evasione fatta sui grandi numeri, oppure se poi alla fin fine, un po' come avvenne con gli studi di settore, si vanno a colpire anche piccoli evasori che non contribuiscono a questo buco, e poi si lasciano liberi gli altri di scorazzare con barche, macchine e quant'altro, o dichiarare 18.000 euro, 16.000 euro. Se alcuni di voi continuano a contestare queste cose, vi leggo la lista delle varie categorie professionali, e ce n'è per tutti, dai lavoratori autonomi, ai dentisti, ai gioiellieri, insomma, per cui, attenzione che le pubblichiamo, anzi facciamo così, dopo la seconda ora, visto che alcuni dicono ma basta prenderla con i lavoratori autonomi, leggiamo la classifica, non dei lavoratori autonomi in generale, delle categorie merceologiche, dei dentisti che dichiarano 21.000 euro lordi l'anno, su. La borsa. Smettiamo di criminalizzare l'autonomo che spesso boccheggia. Attenzione, c'è l'autonomo che boccheggia perché è una finta parità IVA, ne abbiamo fatto intere puntate su questo, il collaboratore che non viene assunto viene messo a parità IVA, guadagna 800-1000 euro al mese, e c'è l'autonomo o il professionista con, insomma, dati inequivocabili. Se dico che anche quest'anno la media dei gioiellieri è 18.000 euro lordi l'anno, dico un dato inequivocabile, non c'è criminalizzazione. Vabbè, la borsa, dai, che forse è meglio, si fa per dire, con quello che ha perso. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera. Il motivo, ossia il blocco delle vendite allo scoperto in Germania, lo affronteremo nella seconda ora. Vediamo se c'è qualche discrimine che si può fare. Milano la peggiore perché pesano di più i bancari, c'era anche qualche stacco cedola? Beh, certamente pesano di più i bancari, questo è l'aspetto più evidente, principale dell'andamento di Milano, è stata la peggiore per tutta la seduta. Ha pesato anche qualche titolo del settore delle materie prime, che è stato particolarmente negativo in tutta Europa, in particolare Saipem, ma anche Eni, è stata particolarmente penalizzata, e hanno pesato poi alcune piccole storie limitate, magari come quella di Telecom Italia, ma in generale si sono tenuti a galla solo i difensivi, i titoli più esposti sul dollaro, delle società più esposte sul dollaro, che hanno tenuto, mentre non c'erano stacchi cedono nel FTSE MIB. Allora, altre notizie che riguardano Geox, non mi sembra un bancario, non mi sembra che improvvisamente smetteremo di metterci le scarpe, ho capito che i conti erano inferiori alle attese, ma insomma anche oggi piglia una sberla, meno 5,80%. Sì, dalla pubblicazione dei conti Geox ha perso oltre il 20%, solo ieri ha avuto una battuta d'arresto in questa discesa, che è stata amplificata oggi dalla precisazione arrivata nella serata di ieri a mercati chiusi da parte della società sulle prospettive del primo semestre, un primo semestre che è atteso con un fatturato in calo, in una misura percentuale simile al calo evidenziato nel primo trimestre, che era stato del 13%, e questo certo non ha fatto piacere a un mercato che già andava a penalizzare il titolo, ripeto, meno 20% nelle ultime quattro sedute. Ancora vedo molti messaggi sull'evasione, torniamo a parlare di evasione. È vero che anche i dipendenti pubblici che fanno doppio lavoro evadono, ma ci mancherebbe, ma chi mi ha detto il contrario? Invito tutti però a ragionare anche di misure, non solo di grandi affermazioni. Vorremmo un'evasione fiscale in Italia simile a quella degli altri paesi, nessuno immagina un paese in cui non si evade, una cosa tipo gli Stati Uniti d'America. Allora andiamo avanti invece con i nostri titoli. Di positivo oggi c'è poco sull'S&P MIB, solo Snam Rete Gas più 0,20, Terna perde meno lo 0,25%, Finmeccanica perde lo 0,7%. Allora Unicredit meno 6%, Intesa meno 4,80%, perdono ben più della media delle banche, delle altre banche italiane. Immagino, però dimmi solo sì o no, che il motivo sia la loro presenza sui mercati internazionali, in caso di Unicredit in Germania, in Austria? No. Beh, insomma, diciamo che Unicredit e Intesa sono sicuramente quelle sempre più penalizzate per quanto riguarda Unicredit, certamente per l'esposizione al settore internazionale. Intesa San Paolo, diciamo che la questione Fideuram e quindi i vari impatti sulla situazione patrimoniale della banca mantiene, diciamo, viva l'attenzione del mercato, quindi l'incertezza su questo finisce sempre un po' per pesare nelle ultime settimane. Allora, di questo, ma anche degli altri titoli, perché c'è il petrolio e il dollaro, parliamo dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms. Le 18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa e poi parlare di quello che è successo in Germania, che poi è quello che ha mosso le borse. Allora, in negativo quasi 4% di calo oggi a Milano. Poi devo dire, a tutto si fa l'abitudine, ormai ci stiamo abituando anche ai cali del 3,50%. Vabbè, Andrea Fontana, Saipem meno 5,90, che non nulla c'entra con le banche. Il settore legato alle materie prime è stato molto penalizzato da un petrolio che è sceso nel contratto a giugno sotto i $69, complice chiaramente l'andamento del cambio che in questo caso vede appunto un rafforzamento del dollaro, anche se oggi c'è stata, diciamo, un piccolo rialzo rispetto ai minimi toccati ieri sera dall'euro, ma con un dollaro debole chiaramente il petrolio scende di prezzo e questo va a penalizzare tutto il settore, che è stato il peggiore, quello delle materie prime, ha perso oltre il 4% in tutta Europa. Va bene, altri titoli, le costruzioni sempre molto trenanti, Buzzini c'è meno 4,60, Impregino meno 4,5, Bulgari meno 4,2, Lecir meno 4,80, Azimut meno 5,30, Italcementi meno 4, Fondiaria meno 3,60 come Generali e Tenaris, Exor meno 3,40, Mediobanca meno 3,20 come Pirelli, Mediolanum meno 3,1 come Prismian e anche Unipol, ST Microelectronics, Fiat ha perso il 2,90 come Eni, il 2,80% l'hanno perso sia il Banco Popolare che Telecom Italia, il 2,70 UbiBanca e il Monte dei Paschi, il 2,60 il calo di Autogrill e di Mediaset e di Enel, il 2,4 il calo di A2A, il 2% quello di Parmalat e di Ansaldo STS, Campari meno 1,90, l'automatica meno 1,80%, migliori e peggiori li diamo subito, miglior titolo Screen Service più 4,90, Cape Lease Investment più 9,50, peggior titolo Ratti meno 8% e Neurosoft meno 16,24%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corri sulle 24 ore. Allora, la lista delle categorie professionali che evadono di più o che hanno i redditi meno congrui la pubblica ogni anno sulle 24 ore. Molti di voi ci hanno detto fate dei distinguo però tra regioni, tra categorie. Avete ragione. In generale devo dire che in tutte le regioni italiane le categorie che dichiarano di più nei lavoratori autonomi sono avvocati e commercialisti, ma anche i dentisti, così... Abbiamo dei dentisti per esempio in Calabria che sono quelli che dichiarano di più in assoluto in Calabria, 26.000 euro lordi l'anno, in Emilia Romagna 50.000 euro lordi l'anno i dentisti, in Friuli 56.000 euro lordi l'anno i dentisti, quasi 60.000, e poi gli avvocati, anche qui molte differenze, sono sempre tra i primi posti, ma in Valle d'Aosta dichiarano 53.000 euro, in Sicilia 31.000 euro lordi, commercialisti, anche qui si va dal Veneto con 74.000 euro lordi dichiarati, o Bolzano 124.000 euro lordi, a commercialisti che dichiarano molto meno come in Molise 30.000 euro lordi. E vabbè, ne torneremo su questo tema un'altra volta, perché adesso vorrei occuparmi di quello che è successo oggi in Germania. Allora, la Consob tedesca, che si chiama BaFin, appunto non è una finanziaria pugliese, ma è la Consob tedesca, ha annunciato che bloccherà, poi Angela Merkel ha anche precisato, a tempo illimitato, per ora tutte le vendite allo scoperto di carattere naked, cioè quelle nude, senza neanche averli ricevuti in prestito, questi titoli l'ho scoperto, e anche i CDS nudi, saranno vietati anche sulle azioni di 10 gruppi bancari assicurativi, oltre che su operazioni legate ai titoli di Stato tedeschi. Allora, cos'è la vendita allo scoperto? È quella possibilità di guadagnare quando le borse calano, o meglio, di scommettere che il titolo o l'obbligazione andrà male. In sostanza, non si acquista mai, si vende un titolo con l'impegno di riacquistarlo. Acquistarlo a un prezzo più basso chiaramente significa guadagnare. Ora, la differenza tra short selling, cioè la vendita allo scoperto classica, e quella nuda, è che nella prima l'investitore scommette sul ribasso di un titolo o di alcuni titoli, cede azioni che ha preso in prestito pagando un tasso di interesse, sperando poi di riacquistarle a un prezzo più basso. La differenza da questa operazione è il guadagno. Nel caso di quelle nude non c'è nemmeno bisogno di prenderle a prestito queste azioni. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento, da un lato il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Beda Romano. Beda, buonasera. Buonasera. E dall'altro adesso avremo anche un altro ospite che stiamo raggiungendo in collegamento per quello che riguarda il programma. Ci è venuto in mente, sentendo anche quella che è la... vedo che adesso mi fanno segnale che la professoressa Marina Brogi ci ha raggiunto in collegamento. Professoressa Brogi, buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Grazie anche a lei, lei insegna economia e tecnica dei mercati finanziari alla Sapienza di Roma. Dicevo, vedendo la decisione tedesca, presa in maniera unilaterale, da soli, senza coordinamento, anche l'Europa su questo è molto perplessa, noi è venuta in mente una canzone un po' irriverente che dà l'idea di quello che sembra l'Europa in questo momento. Ci sono due sì, sembra un po' così l'Europa, Beda Romano, cioè ognuno fa quello che vuole, la Germania blocca le vendite allo scoperto su alcuni titoli legati al debito e su alcune banche, la Consob italiana dice no, non ci stiamo pensando, e questo crea il caos. Che cosa gli è venuto in mente alla Germania di muoversi ancora una volta da sola, Beda Romano? Ma credo che ci siano almeno due motivi per cui la Germania ha deciso di muoversi in questo modo. Devo dire, non soltanto unilateralmente, ma anche completamente a sorpresa, perché non vi erano stati segnali nei giorni scorsi di una scelta di questo tipo. Credo che i motivi siano due. Il primo motivo è un motivo europeo. La Germania e l'Unione fondamentalmente, sta discutendo di come regolamentare la finanza del futuro. Ci sono trattative in corso e in questo momento la Germania ha voluto segnare il territorio, ha voluto spiegare ai propri partner europei in quale direzione, secondo Berlino, bisognerebbe andare. Quindi la decisione di ieri sera è una decisione politica ed è un segnale politico lanciato ai partner europei. Cioè, o vi date una mossa a fare delle regole più stringenti e più limitanti anche per i fondi speculativi, la richiesta di iscriversi in Europa e quant'altro, oppure noi andiamo avanti per i fatti nostri. Questo è un po' il messaggio. No, non direi in questo modo. La scelta tedesca, la semplice scelta tedesca di introdurre un divieto alle vendite allo scoperto, come ha fatto martedì, influenza inevitabilmente il dibattito, influenza il dibattito e influenza le posizioni degli altri partner europei, e quindi il tentativo della Germania è di porre dei paletti sul futuro delle trattative. Il secondo motivo è invece di politica interna. È evidente che in questo momento la signora Merkel è in grave difficoltà, ha perso le elezioni nel Nordrhein-Westfalia alcune settimane fa, è molto ai minimi nei sondaggi, deve far passare nei prossimi giorni il pacchetto finanziario da 440 miliardi di euro deciso a livello europeo per salvare i paesi in crisi, sa che una parte consistente dell'opinione pubblica è fredda o contraria e quindi ha lanciato quest'idea del divieto delle vendite allo scoperto anche per tranquillizzare un'opinione pubblica che ce l'ha a morte con i mercati finanziari e con le banche, e quindi è un modo per rassicurarla. Allora, dopo le informazioni sul traffico, professoressa Brogi, vorrei capire se intanto cosa ne pensa di una decisione presa in maniera unilaterale in mercati globalizzati, ma poi se veramente serve bloccare queste vendite allo scoperto oppure è un modo politicamente per fare, come dicono a Napoli, facciamo una faccia feroce, cioè si fa tanto clamore per nulla. 349-238-6666 per i vostri sms, tra un minuto la risposta. Di nuovo in diretta. Allora, professoressa Brogi, la convince una decisione presa da un unico paese, per quanto il messaggio politico agli altri paesi d'Europa, Beda Romano l'abbia ben spiegato, e secondo aspetto più importante, serve a qualcosa bloccare queste vendite allo scoperto? C'è la possibilità di guadagnare con i cali di borsa, detta in maniera un po' superficiale? Ma direi che per rispondere alla prima domanda, sicuramente sarebbe stato più opportuno cercare di coordinare a livello europeo la misura. Del resto il CISR si era riunito il 7 di maggio e aveva proprio auspicato l'idea, aveva detto, il CISR è il comitato dei regolamentatori dei mercati finanziari europei che raggruppa tutte le autorità di vigilanza sui mercati appunto mobiliari, mm-hmm. aveva detto che avrebbero fatto uno sforzo comune per reagire alla volatilità eccessiva. Secondo me era intuitivo che al di là di un'analisi delle motivazioni, degli eventuali aggiotaggi, degli eventuali problemi di natura informativa, occorreva anche essere pronti, se necessario, a bloccare lo short selling. È stata una misura già presa, cioè non è che la inventiamo in questa occasione, va detto che nel 2009 è stata adottata anche in Italia, è stata adottata negli Stati Uniti. È chiaro che laddove si dà la possibilità di vendere allo scoperto senza neanche chiedere a prestito i titoli, si consente di speculare fortemente al ribasso, cosa di per sé non negativa, a meno che appunto non ci sia nessun tipo di limite, non mettendo la necessità di avere i titoli sottostanti neanche a prestito, è chiaro che si determina un eccesso di offerte e questo eccesso di offerta crea dei problemi. Noi sappiamo benissimo che negli ultimi giorni la banca centrale, le banche centrali europee hanno dovuto comprare titoli di Stato per mettersi in contropartita di tutte queste vendite. Allora, professoressa, io vorrei chiedere una cosa, abbiamo però un minuto con lei e poi un altro minuto con Beda Romano, a cui volevo girare alcuni messaggi che stanno arrivando. Le faccio una domanda probabilmente stupida, ma mi riescono bene. Ma non è eticamente sbagliato permettere uno strumento che scommette sui cali, cioè di guadagnare sui cali? Cioè se uno può ricomprare a un titolo più basso e guadagnare sui rialzi, ma andare a scommettere su un calo e quindi guadagnare cifre importanti con una borsa che va giù, non è di per sé stesso quasi intrinsecamente sbagliato? Ma io non sono sicura che sia intrinsecamente sbagliato. Quello che secondo me non può essere accettato è l'eccesso derivante dal fatto che si può continuare a scommettere a ribasso senza avere alcun tipo di sottostante. Senza rischiare poi, alla fine. Sì. Del resto, adesso parlavamo prima del fatto che la Germania dà un'indicazione a livello europeo. Io ho visto che comunque Manuel Barroso, il Presidente della Commissione europea, ha invitato formalmente proprio il CISR a valutare rapidamente se la scelta della Germania deve essere seguita da altri. Va rilevato che il CISR già da settembre del 2008 presenta un osservatorio in cui fa vedere quelle che sono le misure relative allo short selling a livello europeo, per cui c'è un'osservazione molto forte a livello europeo, con in prima linea appunto il CISR. Mi sembra che Barroso stimoli a seguire ancora più attentamente la situazione, e del resto anche Consob ha messo un comunicato stampa oggi dicendo che sono molto, molto attenti sugli sviluppi. Secondo me è un modo per rendere meno profittevole nel brevissimo periodo la speculazione al ribasso, e secondo me può essere una misura in momenti di dislocated markets in cui effettivamente non c'è la capacità di star dietro a queste vendite allo scoperto, può essere una misura adottata in passato. Io dico, va bene che la finanza, qualunque strumento, però almeno quelle nude, cioè quelle in cui nemmeno prendi a prestito dei titoli pagando degli interessi, ma scommetti solo sul ribasso, quindi alla fine rischi nulla. Poi la borsa dovrebbe essere l'incontro tra chi vende una certa cifra e chi compra una certa cifra, non tra chi investe, guadagna senza rischiare, scommettendo che crolli il mercato, perché è chiaro che vanno a amplificarsi tutte le perdite. Beh, da Romano, in una battuta, molti ascoltatori ci chiedono: ma non è che la Germania avesse paura di conti peggiori in queste 10 banche, gruppi bancari assicurativi, delle attese, quindi ha voluto bloccare la possibilità di speculare su ribassi consistenti su questi titoli? Sì o no, secondo te? Non mi sembra. Non mi sembra. I risultati delle banche e delle assicurazioni nel primo trimestre di quest'anno erano particolarmente buoni. Allianz, per esempio, ha triplicato i profitti. Buoni anche i risultati di altre banche. È molto difficile fare il processo alle intenzioni in questo caso. No, ma era una curiosità, perché ce lo chiedono molti. Sì. Prego. Io aggiungerei una cosa sul problema della corsa al ribasso o al rialzo. Sì. Il problema in questo momento dei mercati finanziari è che gli investitori non si chiedono come andrà un dato titolo sulla base dei risultati aziendali, ma si chiede come pensa il mercato che possa andare il titolo. Ecco perché abbiamo una corsa al ribasso o al rialzo, se mi sono spiegato. No, chiarissimo. Ma quante cavolate dici, scrive un gestore, sì, ho capito, stiamo cercando di far capire a tutti, fa parte della cifra del programma. Anche questo, mi dispiace, magari è un gestore che ha guadagnato ed è abituato a guadagnare molto vendendo, scommettendo sul ribasso, magari anche nudo quanto a titoli. Grazie veramente per oggi, perché temo che torneremo a parlare di questo. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, quindi dalla Germania, e Marina Brogi, docente di economia e tecnica dei mercati finanziari alla Sapienza di Roma. E allora, la volevate di nuovo, l'abbiamo fatta risentire. Sì, l'Europa è un po' così, no? Tanti animali, un'arca, ma insomma, in cui non si stanno parlando, perlomeno per quello che riguarda i mercati finanziari. Beda Romano l'ha ben spiegato. La Germania, con una fuga in avanti, vuole dettare lei l'agenda di quelle che sono le riforme del mercato finanziario. E la Gran Bretagna non ci sta, però va anche detto che la Gran Bretagna non ci sta in molti casi, non è nemmeno dentro l'euro. Con questo si chiude la puntata di oggi di Focus Economia. Vi dico cosa sta facendo l'America: meno 0,80% in leggero miglioramento, euro a quota 1,2340. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.